La donna è mobile, qual fiume al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una mobile, leggiadro viso, il pianto in riso è menzognero. La donna è mobile, qual fiume al vento, muta d'accento. Qual fiume al vento muta d'acciaio.